Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Andiamo ad iniziare l'ultima eclettica della settimana, il volume numero 5, quello del venerdì. Chissà che sensazioni, che emozioni proverò quando dirò l'ultima eclettica in senso assoluto il 30 di maggio, quando saremo nella 24 ore non stop che ci porterà alla chiusura di Rock FM il 31 di maggio. Chissà che sensazioni, che emozioni proverò per cercare di far capire invece che cosa si prova in questo momento, in questi mesi che ci stanno portando lentamente alla chiusura di un'esperienza durata 18 anni e da un po' di tempo che sto utilizzando più spesso che in passato le vostre parole. E frequentemente mi capita di farlo proprio in inizio di trasmissione, come faccio ora, con le parole di Davide. Vi seguo da poco, precisamente dal momento in cui avete allargato le vostre frequenze anche sulla mia regione, l'Emilia-Romagna. Ci tengo a precisare che nonostante sono un grande appassionato di musica, non sono mai stato o mi sono definito radioascoltatore. Non per presa di posizione o altro, ma semplicemente per il fatto che, come in moltissimi ambiti della vita quotidiana, si tende a escludere o allontanarsi da quei vettori di informazione ed intrattenimento in cui non ci si sente giustamente rappresentati. E la discussione cade non a caso proprio in questi tempi di cambiamenti politici. Qualcosa, per quanto mi riguarda, voi nel vostro piccolo e con il vostro lavoro, per me lo avete cambiato. Quel dì in cui, sconsolato e annoiato di ritorno dal lavoro, non potendo più sfruttare il mio lettore MP3 in auto, in quanto scarico di batteria, mi sintonizzai casualmente sulla vostra emittente. Fu qualcosa che difficilmente descrivo. Personalmente mi riporta a quel mix di sensazioni, di gioia, riscatto, sorpresa ed euforia che ti colpiscono e ti risvegliano come una ventata di aria fresca in una stanza chiusa da tempo. O più semplicemente, con un linguaggio a voi più consono, come quei momenti belli o brutti della vita in cui ti rialzi al suono della tua canzone preferita. Da quel giorno in auto e non solo, ho spesso e volentieri mandato in pensione il mio lettore MP3. Penso che avete fatto veramente qualcosa di speciale e nell'aria, qui dalle mie parti, si è sentito quel profumo di cambiamento e di provocazione verso i canoni costituiti che spesso ti accompagnano e delineano, purtroppo, molti momenti della nostra vita. Siete andati contro. E per questo io vi ammiro, soprattutto in un paese come l'Italia, in cui da 26 anni ci vivo e a 26 anni non sono ancora riuscito a farmi piacere, principalmente per il mio modo di pensare, perché per il resto è un gran bel paese. Non mi dilungo con lista dei momenti più belli e divertenti che ho passato e di cui siete stati la mia colonna sonora. Spero solo di avervi trasmesso qualcosa di positivo, perché questo è ciò che voi avete fatto con me e il minimo che posso fare per ricambiare in poche parole. Semplicemente vi ringrazio e vi ammiro. Non vorrei sbagliare nella citazione, ma mi pare di aver sentito, correggetemi se sbaglio, il buon Freak Antoni con una delle massime più calzanti degli ultimi tempi e che cade a fagiolo in questo momento per tutto ciò che riguarda l'Italia. In Italia non c'è gusto ad essere intelligenti. Quante persone un uomo frequenta nell'arco della sua vita? Facciamo una media, 10 più 10 meno. 500.000? E quante di queste si porta nel tempo impresse nella memoria? Diciamo un centinaio, tra compagni d'infanzia, di scuola, di università, di naia. Il grosso dei ricordi è riservato ai compagni di lavoro, ai colleghi. Tutti i musicisti che ho incontrato in vita mia, fossero importanti o no, leader o sideman, musicisti di fila destinati a passare la loro vita dietro a un leggio, li ho sempre considerati una categoria felice, estrosa, gradevole da frequentare anche fuori dal lavoro. E questo si spiega avendo tutti noi, mi ci metto in mezzo anche io, scelto un mestiere che ha il fine di rallegrare la gente. I musicisti invecchiano senza aver avuto il tempo di accorgersene. E certo, lasceranno tanta eredità di affetti per aver pensato, nella loro professione, solo a far divertire il pubblico e a fargli dimenticare, almeno per una sera, le tristezze e la noia. E l'applauso? Dove lo mettiamo l'applauso? Non ha prezzo, credetemi, si può essere stanchi morti per la tensione, perché far divertire la gente è faticoso, ma quando scatta l'applauso non c'è ricompensa che lo possa eguagliare. Questo era ancora Billie Holiday, Che palle, di Carlo Loffredo. Operational and all my circuits are functioning perfectly. We'll be right back. Is there no one left to break you down? Poche parole, pochissime, perché non ce ne spese molte in inizio di Eclettica quest'oggi. Quindi Giulio Caperdoni qua solo per annunciarvi che vi siete ascoltati prima The Plastic Constellation con Stay That Way e poi Sunlocks con Break, che è accoppiata. Che è accoppiata perché ancora non avete sentito il prossimo brano che sta per arrivare. Un grande terzo disco per un gruppo di Seattle, un trio di Seattle che però è andato in Canada. Ha bussato alla porta della Constellation Records e gli è stato aperto. Loro si chiamano The Dead Science e sono usciti con un album Villainaire che a me è piaciuto molto. E stanno per iniziare, anzi, hanno iniziato proprio in questi giorni, se non ricordo male il 17, partono da Seattle con un tour che li porterà in giro per Stati Uniti e Canada assieme ai compagni di Etichetta e Silvermont Zion, che ben conoscete voi che ascoltate Eclettica. Questa è The Throne of Blood, The Jump Off. Yeah. Chet. Quanto jazz ho imparato suonando ogni sera con lui. Come leader era cattivo, fino al sadismo. Saliva in pedana senza dirci cosa avrebbe suonato, né in quale tonalità né a che tempo. Neanche uno sguardo d'intesa e via. Cominciava a suonare, obbligando Romano Mussolini, Roberto Podio e me, che lo dovevamo accompagnare, a un lavoro snervante per capire tutto quello che c'era da capire fin dalla prima battuta e suonare dando il meglio. Stavamo suonando con il trombettista più geniale del mondo. Dovevamo svegliarci, che diamine. Ogni sera era un piccolo supplizio, ma quanto si è arricchita la nostra cultura. Che Chet fosse schiavo della droga lo si sapeva. 10 minuti prima di cominciare lui scompariva, si nascondeva chissà dove, faceva il pieno e via, a suonare da Dio. Cosa importava se si presentava vestito alla bene meglio con la giacca dello smoking senza il cravattino, i pantaloni lisi e i sandali gialli francescani con i pedalini corti fantasia? Come la prima nota usciva dalla tromba, calda e sommessa, era subito poesia. Cantava variando quel tema sommesso, quasi a scusarsi, con espressione di sofferenza, rannicchiato nelle spalle a cercare dentro il meglio da tirare fuori, per invitarti nel suo mondo pieno di fantasmi e angosce, dove potevi seguirlo ma solo fino a un certo punto. Questo era ancora Billie Holiday, Che palle, di Carlo Loffredo. Let's just imitate the real until we find a better one. Remember the good lies when, remember the good lies when. We'll be right back. My mind is going. I can feel it. In the sorest of times, got your thoughts on my mind. The faster they come, the less I remember you. Brightest of days, you look three states away. I squint through the sun as you leave with the sparrows at dawn. In the coldest of nights, I sit shaken and bright. Spit through my teeth, that roll down my chin, and then I stare. If I ever let you out of bed without a kiss to the side of your head, well then I never deserved you from the start. So you can let loose the warmth around my heart. If I never let you out of my door, never know you're in the dark. If I never picked you out, been so sure you'd be home and the family keeping Jack.